أعوذ بكلمات الله التامة كلها. Mi rifugio in tutte le perfette parole di Allah. Min sharri ma khalaq. Come protezione dal male delle cose che egli creò.